Il discorso che facevamo è infatti è così, si vede anche da Audacity che la traccia adesso è migliore. Certo, questo fatto dello schermo e della mia mano, qua mi dicono che mi faccio tagliare, meno male, non tagliarti le vene, perché insomma, addio. No, no, no, allora è molto bello fare queste prove ai microfoni, ci stiamo divertendo un sacco, ma prima o poi parleremo anche di fieri in mensa, non dubitate, perché proprio questo è il momento di parlare di un argomento, l'ultima serata. Come va? Com'è andata questa fiera immensa? In questo caso io non ho degli ospiti, no. Ho pensato di concludere da sola, in solitaria, con un microfono in bocca, insomma. Chissà che cosa si potrà mai fare in questo modo. E qui veramente sentiamo il trash, ma non ce ne frega niente, anzi in realtà devo dire che forse lo facciamo anche un po' apposta, ci piace essere un po' blasfemi, un po' così, va. Intanto io direi che mi prendo veramente 2 minuti di pausa, ma proprio due, vi giuro, due. Dopodiché vi racconterò quello che è la visione del mondo guardando lo spazio da fiera immensa, una fiera immensa che vi ricordo è all'undicesima edizione. E infatti volevo ricordarvi che questa, come ormai avrete capito, è l'ultima serata che trasmettiamo in diretta da fiera immensa. Sicuramente non sarà l'ultima serata che trasmetteremo in diretta dalla fantastica Cos Angeles, ovvero da Cosenza, ma oddio, non si. Ah, ecco, il programma sta per essere chiuso. Bene, ora mandiamo veramente 2 minuti, dico due, di musica e poi riprendiamo con questa trasmissione bellissima, con questo speciale da figli da Fiera Immensa, undicesima edizione. Ed eccoci qua, finalmente siamo ritornati e abbiamo sicuramente risolto tutti i nostri problemi di audio attraverso un meccanismo molto particolare, un meccanismo del tutto manuale e non automatico, diciamola pure così. Bene, vi dicevo che siamo qui dalle Officine Babilonia e questa volta non mi sbaglio perché siamo proprio all'interno delle Officine Babilonia, più precisamente ci troviamo all'interno del laboratorio, infatti nell'altra sala, quella grande, per chi conoscesse un po' la struttura di cui vi sto parlando, che si trova in un capannone occupato all'interno dell'area dell'ex officine delle ferrovie della Calabria di Cosenza. E nell'altra sala si sta tenendo un momento di riflessione sulle problematiche africane. Noi invece siamo qui, abbiamo abbandonato la nostra postazione che si trovava all'interno del MOCI perché è la seconda volta che tutte le nostre cose vengono spostate. E un giorno si smarrisce, diciamo, un cartellone nostro costruito a mano dal mitico Peppe, che questa sera non è con noi e che salutiamo, e un altro giorno trovo tutto il mixer spostato, con tutti i valori sballati, un altro giorno proprio il mixer viene trasportato in un altro posto, e vabbè, insomma, forse non abbiamo trovato, insomma, una situazione del tutto ospitale, chissà perché, forse proprio perché transizione di fase è una radio scomoda, forse perché transizione di fase parla a vanvera, forse perché transizione di fase è blasfema? O perché è pornografica? Tutte queste cose. Ma a noi che ce frega? Quindi siamo giunti qui in questa fantastica sede delle Officine Babilonia, nel laboratorio dove gli artisti, dove chiunque fondamentalmente, chiunque no, i fascisti sicuramente li cacciamo a pedate, insomma, almeno io personalmente li cacciamo ampiamente a pedate perché sti cazzi. E quindi sono qui tutta sola soletta a parlarvi di Fiera Immensa undicesima edizione. Attenzione perché non sappiamo se ce ne sarà un'altra di edizione di Fiera Immensa. Non sappiamo, rimaniamo nel vago. Non diamo troppi scoop perché qui a Cosenza se si danno notizie vere si finisce per essere smentiti immediatamente con dei comunicati abbastanza strani ed equivoci. Ed è questo il punto che volevo discutere insieme a voi per questa mezz'oretta. Infatti parleremo da Cosenza in diretta dalle 19:30, che sono ormai appunto le 19:30, fino alle 20:00, poi lasceremo la parola, o meglio i microfoni, agli amici Mozilli che trasmetteranno i loro programmi in differita, perché lo fanno in diretta Radio Ciroma. Salutiamo gli amici di Radio Roma, sempre comunque. E dunque C'è qualcuno che passa, c'è qualcuno che vuole dire una cosa, no, non puoi dirla. Ernest va fuori perché iniziano una preghiera. No, Oreste! No, non diciamo, sempre metaforicamente parlato. Foraga, prendi il giornale. Oh, una notizia. Ma questa volta non me ne frega niente. Lo scoop lo diamo. Questo però significa essere veramente fuori dal rispetto delle strutture. Mi ha comunicato il compagno Ernest che all'interno di uno spazio del genere viene effettuata una preghiera. Ma fora gabbo, ma che cazzo vuol dire? Una preghiera, non ci posso credere. Cioè, ma che cazzo andassero a pregare nelle loro bellissime chiese? Perché devono venire qui da noi in un capannone abbandonato, in un capannone occupato, a dire una preghiera? Ma mi sfugge. Vabbè, vorrà dire che dopo faremo uno sbattezzo generale con un po' di sale, spergeremo un po' di sale, che insomma magari porta sempre bene, non lo sappiamo. Però cazzo, che notizia, insomma. Ad ogni modo, dopo questa incursione pirata del nostro compagno Ernest, vogliamo leggervi un comunicato stampa. Ora, noi lo leggiamo, poi insomma, che ce ne frega. Allora, sul sito di Fiera Immensa, appunto, noblogs.org, quindi vediamo come Fiera Immensa si appoggi a noblogs, notoriamente in necessità di denaro. Quindi preghiamo Fiera Immensa da questi microfoni di fare un contributo ad Autistici, che appunto offre lo spazio Noblogs. Come tutti sapete, infatti, Autistici, come dicevamo anche ieri sera con Irene, Autistici ha un fortissimo debito di 5.000 euro, e questo perché le persone che utilizzano Autistici, le mailing list, le caselle di posta, spazi per siti, spazi per blog, sono veramente tante e crescono di giorno in giorno, perché è bello avere uno spazio libero, è bello avere la possibilità di mandare mail criptate, è bello utilizzare dei server sicuri, ma sti cazzi poi non è bello quando bisogna pagare. E infatti Noblogs, no, Autistici, scusate, non è che vi chiede il bollettino, altrimenti vi cancella lo spazio, altrimenti non vi dà la casella di posta, no. Però dovrebbe essere sensibilità di ciascuno di noi che fa uso di questo spazio, attribuire almeno annualmente una cifra, che può essere simbolica, che comunque è rapportata magari alle nostre potenzialità, alle nostre tasche. E vi invitiamo dunque da questi microfoni a contribuire al progetto di Autistici. Ma non divaghiamo ulteriormente, perché su questo sito, come vi dicevo, fierimmensa.noblogs.org, ci sono tante cose, tante belle foto, altre, insomma, ci sono tante belle, alcune belle foto, tante informazioni chiaramente su Fiera Immensa. Però c'è anche un comunicato stampa che noi leggiamo integralmente. In merito all'articolo a firma di Francesca Pirri pubblicato sul quotidiano La Calabria il giorno 15/3/2012, e si rinvia un PDF nel quale si afferma che, citato, virgolettato, a causa di un incidente subito dal tetto in Eternit, riparato solo parzialmente, si è pensato di trasferire la mensa nel capannone delle officine. Questo lo dico io, le officine Babilonia, lo spazio nel quale ora ci troviamo. Il comunicato continua dicendo che si precisa che al contrario, le condizioni sanitarie all'interno del capannone, cioè quello di Stella Cometa, lo aggiungo io, per chi non sapesse bene la dislocazione delle varie strutture. Dunque, le condizioni sanitarie all'interno del capannone sono tali da rispettare tutti gli standard di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, come riporta il certificato in allegato. Restano i problemi legati alla presenza di amianto nell'area ed in numerose altre zone della città di Cosenza, ma questo è ovviamente un problema che va al di là dell'iniziativa di Fiera Immensa. Si chiede la pubblicazione e rettifica di quanto riportato, afferma Comitato Promotore Fiera Immensa. Dopodiché, vi dico per correttezza, perché anche Transizione di Fase vuole fare la sua parte, vuole informare il suo vastissimo pubblico. Dopodiché segue il PDF di una perizia, magari chi vuole può andarla a leggere, può andarsela a scaricare sul sito, ripeto, fierimmensa.noblogs.org. Ebbene, ebbene, ebbene, che cosa succede? Succede che una giornalista, Francesca Pirri, del quotidiano della Calabria, che appunto viene citata nel comunicato stampa, si reca il primo giorno, il 15 per l'esattezza, il primo giorno di Fiera Immensa, si reca nell'area delle ex officine delle ferrovie della Calabria e assiste chiaramente a quello che accade. Accade che la mensa viene spostata in via precauzionale dallo spazio di Stella Cometa, un'associazione di stampo cattolico, ad un altro spazio, cioè quello delle officine a Babilonia, che non sono certamente uno spazio cattolico. Ad ogni modo, questa decisione è stata presa a seguito di una assemblea che è stata chiamata da le persone che fanno parte del comitato di Fiera Immensa, e quindi in questa assemblea, alla quale hanno partecipato numerose persone, si è deciso di spostare, appunto, come vi dicevo, in via precauzionale la sede della mensa da una zona all'altra, proprio perché che cosa era successo? Ci sono stati questi problemi al tetto che sono stati riparati, come dice l'articolo del quotidiano di Francesca Pirri, sono stati riparati solo parzialmente, quindi in maniera precauzionale, proprio per non mettere a rischio la sicurezza delle persone che andavano a prestare servizio, delle persone che andavano a consumare il loro pasto all'interno di quel capannone, si è pensato bene di trasferire la mensa. Ebbene, questo comunicato stampa, come voi potete vedere, non accenna minimamente a tutto ciò. Praticamente non si capisce, in base a questo comunicato stampa, al contrario che dice, le condizioni sanitarie all'interno del capannone sono tali, eccetera, eccetera. Ora, ci chiediamo, secondo il comitato promotore di Fiera Immensa, secondo le persone che hanno scritto questo comunicato, suppongo tante persone che stanno ascoltando la nostra trasmissione, vogliono capire se effettivamente c'è stato o non c'è stato questo trasferimento da un giorno all'altro, e vorrebbero sapere per quale motivo si è fatta questa perizia subito dopo che è stata spostata la sede della mensa da uno spazio all'altro. E questi sono dei grandi, grandi misteri. Comunque, come voi avete sicuramente memoria, Transizione di Fase ha già raccontato questa cosa ascoltando persone che fanno parte del comitato di Fiera Immensa, che giustamente avevano pensato di spostare in maniera precauzionale sede della mensa da un capannone che presentava appunto dei problemi all'altro. Se non c'erano problemi, si poteva benissimo fare questa perizia già da prima. Non capiamo perché la perizia è uscita solo dopo che è stata effettuata questa scelta, cioè la scelta di trasportare da una zona all'altra lo spazio appunto dedicato alla mensa. E beh, come vi dicevo, tutti questi sono dei misteri, i misteri della vita, o come dicono i cattolici, i misteri della fede. Ma siccome noi non abbiamo fede in una divinità superiore a noi, ma crediamo solo nell'umanità e nelle intelligenze delle persone, vorremmo che questo comunicato fosse stato più chiaro, ma forse chi lo ha scritto, chissà, faceva parte del comitato, era tutto il comitato, perché prima si prende una decisione, poi un'altra. Quindi come funziona questo comitato di Fiera Immensa? Ci sono più livelli, c'è il livello 1, livello 2? No, non abbiamo idea di quello che sia accaduto. Non sappiamo, chissà. Certamente il comitato di Fiera Immensa dovrebbe fare maggiore chiarezza, dovrebbe fare maggiore luce su quello che accade, su quello che è accaduto. Intanto mi corre l'obbligo di salutare i nostri ascoltatori, sempre numerosissimi, e con questo dubbio, cioè, ma secondo questo comunicato si è spostato o meno la mensa? Ma secondo questo comunicato la Francesca Pirri ha visto le stelle e ha scritto stronzate? No, secondo noi no, anche perché anche Transizione di Fase si trovava lì con i suoi microfonini e tutte le sue belle attrezzature tanto simpatiche e ha visto che la mensa per un giorno è stata spostata nella sede delle officine Babilonia. E chi lo sa che cosa sarà successo, ma noi però non pensiamo mai male, forse pensiamo questo: chi ha scritto il comunicato non conosceva bene l'uso della lingua italiana. Ebbene sì, e dovete sapere che la lingua italiana non è conosciuta moltissimo, ma questo non solo in Calabria, un po' in tutta Italia. La gente dimentica di studiare l'italiano e poi quando scrive, scrive coi piedi. Oddio, ho detto qualcosa che non dovevo, non lo so, però a ogni modo grazie dei complimenti che mi giungono dalla chat. È sempre un'ironia, quindi come potrete mai prendervela per questo? Imparate un po' di più l'italiano, però vi prego, quando scrivete, fate attenzione e soprattutto abbiate chiaro il messaggio che volete comunicare, perché, ripeto, da questo comunicato io non comprendo. Fai contenuti, mi dicono. No, ora faccio un po' di musica. Ed eccoci qua, siamo ritornati di nuovo in diretta dalle officine Babilonia per questo ultimo appuntamento con transizione di fase in diretta da Fiera in Mensa. Mancano veramente pochi minuti, poi come dicevo cederemo la parola ai Mozilli. Bene, quest'oggi, l'ultimo giorno, volevo ricordarvi brevemente il programma della serata. Alle ore 18 si è appena conclusa, appunto, c'è stato questo incontro per parlare di Africa, risorse, conflitti, cooperazione a cura di Ibrahim Diop. E infine alle ore 22 ci sarà alle officine Babilonia sempre un DJ set curato da Italuzzu e Iaio. Però la cosa bella di venire in questo spazio è sicuramente l'ambiente che si respira. Infatti in questi ultimi minuti voglio parlarvi proprio di questa cosa. Voglio raccontarvi di come sia bello arrivare qui in questo spazio occupato e trovare alcuni capannoni magari un po' più chiusi, più bui, non so. Altri invece sono belli, allegri, colorati, pieni di tanta musica. C'è per esempio il banchetto, l'infoshop del Rialzo, dove si vendono anche tante cose da mangiare, molto buone, per chi ama la carne. Ovviamente io, diciamo che ho declinato gentilmente l'invito. E c'è tanta musica sparata dalle casse a tutto volume, che si mischia poi a quelli che sono i rumori della fiera che, ahi noi, è qui vicino e non è più nel centro storico di Cosenza. E dall'altro lato invece risponde la musica dell'Associazione Calafrica, che ha da poco inaugurato la nuova sede. Infatti c'era una piccola casetta, diciamo così, abbandonata, che era rimasta chiusa, attigua alle officine Babilonia, che Calafrica ha pensato bene di ristrutturare. Ancora il lavoro non sono del tutto completati, però devo dire che visitando la sede si ha una bella impressione, tutto molto carino, molto un po' piccolo sicuramente come struttura, però finalmente anche Calafrica ha una sua sede. Calafrica, lo ricordiamo, è un'associazione fatta da migranti e non che vogliono proporre e diffondere lo scambio culturale fra i paesi dell'Africa e l'Italia. Invece dalle officine Babilonia fra poco partirà anche un po' di musica, tanto, tanto divertimento e soprattutto tanto stare insieme fuori dai diversi e dai soliti canoni, insomma, che ormai imperversano in questa città che è diventata sempre più borghese, una città dove si va in giro soltanto nei locali a pagare birre a prezzi altissimi. Qui quantomeno i prezzi sono popolari. Vabbè, facciamo un po' di pubblicità, vabbè, un po' così, ma ci sta pure, dai. E si incontrano soprattutto tante persone interessanti. In questi giorni quest'area è stata piena di iniziative di varia natura, alcune però veramente molto interessanti, come magari avrete capito dalle interviste che abbiamo fatto un po' in giro. Soprattutto ricordiamo Phoenix, che ormai è un transitore di fase, noi lo sappiamo, è un transitore, sì, che è venuto da Taranto per effettuare sui muri del Rialzo un graffito che, devo dire, ha riscosso molto successo. Infatti ieri sera molte ragazze, molti ragazzi si fermavano a parlare con questo giovane artista, chiedendogli se era lui l'autore, facendo varie domande. Quindi vuol dire che quest'arte in realtà è veramente molto apprezzata in città da chi sicuramente ha gli strumenti per comprenderla. poi c'è anche a Cosenza chi parla di scarabocchio, di disegni nella migliore delle ipotesi. Però, vabbè, ci sta anche quello. Oddio, secondo noi non dovrebbe starci, però l'ignoranza a volte fa dire queste cose, come dicevamo ieri sera con Phoenix. Però altri momenti interessanti sono stati senza dubbio i vari concerti che si sono sviluppati qui all'interno di Officine Babilonia. Ieri sera, per esempio, ci sono stati Baskin, che io avevo impropriamente definito come gruppo di musica genericamente tradizionale. In realtà fanno musica popolare calabrese, e finalmente un gruppo che fra l'altro io conoscevo, però insomma nella svampitaggine c'è anche il fatto di dire cose un po' troppo vaghe magari. Ma questa sera siamo veramente molto molto sobri, non abbiamo assunto alcuna sostanza alcolica per il momento, quindi è per questo motivo che sentite la mia voce forse un po' lontana per via del microfono, ma sicuramente più ferma e meno, come dire, ridereccia. Intanto le porte si aprono e c'è qui un Ferdinando che saluta e dice dopo, ok. Salutiamo Ferdinando che si era affacciato all'interno del laboratorio delle Officine Babilonia. Che cosa dire più? In questo momento ascoltiamo la musica che viene dal banchetto del rialzo. In definitiva, quello che ci ha colpito di più comunque è stata la possibilità, per quanto ci riguarda, di far conoscere un po' in città questa radio transizione di fase, che ieri è stata oggetto di un incontro addirittura con i volontari di Fiera Immensa. È stato dunque spiegato loro che cos'è transizione di fase, che cosa sono i vari strumenti di informazione dal basso, a partire da quella che è stata nel 1999 la grande svolta del mediattivismo, cioè la creazione a Seattle di Indymedia. E questi sono stati dunque i temi affrontati in questo incontro, un incontro anche breve se vogliamo, però abbastanza brillante, abbastanza divertente, almeno questa era l'intenzione di chi ha tenuto appunto questa simpatica discussione. Molte persone si sono avvicinate al banchetto di transizione di fase, lo diciamo, persone di varia natura, persone che si sono lasciate intervistare, ricordiamo per esempio ieri Irene che ci ha spiegato quello che era verde binario, ricordiamo anche Ferdinando, Ciccio Noto che fanno parte del comitato di Fiera Immensa e che sono gentilmente venuti a dialogare con noi, ma ricordiamo anche tanti giovani volontari, un ragazzo molto simpatico del giornalino che l'Azione Cattolica fa all'interno della Fiera Immensa, un appuntamento, quello di Fiera Immensa, come dicevamo, che fino ad ora si è connotato per la diversità di persone, di realtà e di strutture che hanno dato vita appunto a questa manifestazione che va avanti da 11 anni. Quindi accanto alle Officine Babilonia, al CPO Arialzo, c'è anche appunto la componente cattolica, però nell'uno e nell'altra hanno fino ad ora, scusate questa incursione dialettale, fino ad ora nessuno, diciamo, ha comunque mai pensato di avere la certificazione di Fiera Immensa assoluto. Fiera Immensa nasce proprio perché c'è questo incontro di diversità, sia di etniche sia ideologiche. E questo fino ad ora è stato Fiera Immensa, il fatto cioè di potersi incontrare al di là di tante discussioni. Molte persone, dicevo, si sono avvicinate al banchetto di transizione di fase, molti ragazzi, soprattutto le persone più giovani, erano molto interessate all'idea di realizzare una web radio. Ricordo una ragazza, soprattutto, che si è fermata veramente a lungo a parlare con noi, a chiederci tante cose, veramente molto incuriosita, e questa cosa ci ha fatto veramente molto molto piacere, perché quando a parlare sono le persone giovani è sempre più bella e stimolante. Questo almeno secondo il nostro parere. Ebbene, mancano pochi minuti, a questo punto non ci resta che ringraziare, e siamo al momento dei ringraziamenti finali, e ci dispiace anche di abbandonare questo microfono proprio arrangiato, però è giunto il momento che tanti magari aspettano, cioè che transizione di fase si metta un tappo in bocca. No. Questo non accadrà mai, perché Transizione di fase non teme censure, perché Transizione è una radio che la prende bene. Che prende bene, questo slogan ci è piaciuto molto. Bene, dicevamo, è il momento dei ringraziamenti. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno sostenuto, che hanno lavorato con noi. Ringraziamo Guglielmina che è stata con noi nel cuore. Ringraziamo soprattutto Stefania che ritornerà presto fra noi. Ringraziamo Virgi con la quale abbiamo avuto una interessante puntata, la puntata più hot di tutti questi speciali, dobbiamo dirlo. Poi ringraziamo Ernest che si prodiga come al solito. Ringraziamo Phoenix che praticamente ha tenuto con noi mezze puntate. Ringraziamo il nostro tecnico Peppone che questa sera per motivi diciamo tecnici non è con noi, ma che ha dato un enorme contributo alla realizzazione di questo speciale. Ringraziamo anche Verde Binario, ringraziamo Irene e anche Emiliano che non ha voluto parlare con noi alla radio. Comunque ringraziamo anche Verde Binario perché ci ha sostenuto e ci siamo confrontati più volte e ieri sera insomma è stato molto divertente parlare con loro. Ringraziamo i compagni delle officine Babilonia che danno il loro contributo sicuramente, i compagni del CPU Arialzo che hanno dato il loro contributo, sono venuti a parlare con noi, sono stati molto carini e molto gentili a dialogare con noi. Quindi ringraziamo tutte le persone che si sono accomodate, come dicevo prima, sul divano gentilmente offerto dal Moci, che sicuramente ringraziamo come struttura che ci ha ospitati. E niente, sono le 19:54. Io credo che sia proprio giunto il momento di stoppare definitivamente la nostra programmazione qui in diretta da Cosenza. Vi ricordo che avete ascoltato. Qua dice che hai capito e pure rimorchiato. Jiu-jitsu, non fare scoop, non dire cose le quali ti potresti pentire. Ebbene sì, è giunto davvero il momento di salutarvi e di rimandarvi, non diciamo al prossimo Fiera Immensa, perché non si sa mai che cosa potrà accadere nella vita, ma niente, vi lasciamo alla programmazione di transizione di fase. Ricordiamo che fra 5 minuti ci sarà il programma di Mozilla Bros. Ascoltatelo perché è sempre molto divertente. E noi vi diamo appuntamento a una delle prossime volte che sarà sicuramente a breve. Ok, vi saluto, ciao e ascoltate sempre transizione di fase.